E allora buonasera di nuovo a tutte e a tutti su Onda Rossa 87.9 0649 17 50 per chi ci vuole chiamare, ondarossa.info sulla rete, e direi che passo subito la parola per Scienza e Potere questa sera. Radioattività, a te Lorenzo. Questa sera improvvisiamo perché avevamo in programma un'altra trasmissione che è soltanto rimandata. Avremmo dovuto parlare della scoperta del buco nero supermassivo all'interno di un ramo della galassia, della nostra galassia, scoperta da un team sino-italiano, quindi da un team di scienziati cinesi e italiani. L'occasione era l'occasione ghiotta di approfondire i rapporti tra scienza e potere nell'ambito del ciclo di trasmissioni del Thread Union, di tutte le trasmissioni di quest'anno, soprattutto per capire un pochino come funziona il rapporto tra scienza e potere in Cina. Ci incuriosiva molto, la trasmissione soltanto è saltata per cause indipendenti dalla nostra volontà e verrà presto rimediata, recupereremo. Allora, però, per il momento avevamo deciso di affrontare un tema che l'anno scorso avevamo tanto toccato. Alla fine, tra una cosa e un'altra, viene fuori che uno dei limiti, dei contatti enormi tra scienza e potere, mercato e potere, come vedremo anche oggi, ha a che fare con la radioattività. Tutti gli esempi paradigmatici dei rapporti tra scienza e potere, anche quello che abbiamo fatto a giugno per introdurre questo ciclo di trasmissioni, aveva a che fare con l'utilizzo dell'energia, della radioattività, quindi dell'energia poi derivante dalla radioattività, l'energia atomica, sia per scopi civili che per scopi militari. Quello è proprio un terreno su cui è evidente il rapporto tra le possibili influenze del potere, qualunque forma esso abbia, qualunque aspetto assuma sui risultati della scienza. Ci sembrava opportuno, e quindi abbiamo deciso di farlo, di ritornare un po' indietro, perché se è vero che il nucleare, magari ne abbiamo parlato tutti quanti, questa difficoltà di affrontarlo in modo laico, se vogliamo, si porta dietro anche la difficoltà ad affrontare il tema base, cioè il tema della radioattività, la scoperta della radioattività e l'esistenza della radioattività. Questo ci unisce pure a Geologia Senza Frontiere, all'altro pezzo di Entropia Massima che compone il quartetto mensile, e che anche Geologia Senza GSF si sta prodigando a osservare dove la scienza e il potere si intersecano con le ultime puntate sulla protezione civile. Perché ci porta a contatto? Perché una delle prime cose che vi invitiamo, care compagne e compagni all'ascolto, care sorelle e cari fratelli, anche se oggi magari un giorno prefestivo non siete nelle assemblee dei vostri spazi, perché magari avete deciso di saltare, no? per il clima prenatalizio, le assemblee di gestione, quindi sarete più numerosi del solito all'ascolto della nostra radio preferita. E quindi partiamo dall'inizio e partiamo proprio con tutti i fenomeni che GSF, in anni e anni e decenni di attività di trasmissione a Entropia Massima, ha evidenziato la dinamica terrestre. Abbiamo parlato tanto, in quanto esponente anche di quell'altra parte, abbiamo parlato tanto di terremoti, di vulcani, di dinamica terrestre, di movimenti. Abbiamo a che fare con un pianeta bello, bello riottoso come Radio Onda Rossa, bello vivo, porca miseria. Però scusa, ti ricordo, stasera sei qui nelle vesti di libero scienziato, il cittadino di libero stato. E infatti adesso io ti ringrazio per la ma io torno subito a bomba. No, a bomba non si può dire nel caso della radioattività. Torno subito in tema e parlavamo appunto della dinamica terrestre. Però non parliamo tanto della Terra, perché come mi ricordava il comandante Jacopo a una lezione che abbiamo assistito insieme, si faceva un confronto, tu non te lo ricorderai, però si faceva un confronto tra la dinamica della Luna, dove da quando sono stati installati degli accelerometri, credo proprio nella prima missione Apollo, a oggi sono stati registrati una cosa tipo 5 terremoti, mentre invece da noi ce ne registrano tipo 1000 l'anno in tutta la Terra. Non ci sta vulcanismo, la stessa cosa vale su Marte. Che differenza c'è? E poi noi abbiamo un sacco di elementi che ti fanno pensare che questo, che questa terra è viva, è viva. Cioè proprio c'è un flusso di calore. Se tu fai un buco per terra, ogni chilometro la temperatura aumenta di 3 gradi. C'è quello che si chiama flusso, cioè un flusso di calore, diciamo, quindi c'è il gradiente geotermico, andando in profondità aumenta, la terra emette calore. E questo calore, che è molto, che è abbastanza elevato e che è diverso nelle zone diverse della Terra, ma che comunque si mantiene su una certa quantità, deriva essenzialmente, prevalentemente da due cose. Il resto del calore ovviamente viene assorbito come radiazione solare, che abbiamo già visto essere una radiazione di tipo nucleare. Viene assorbito, viene emesso dalla Terra sia per residuo di perdita di calore derivante dal raffreddamento iniziale, da stratificazione della Terra, come possono insegnarci i geologi veri di Geologia Senza Frontiere, e, ecco, e non i parvenu come me, in massima parte si parla anche del 60%, dalla presenza, dal decadimento di alcuni elementi chimici che sono presenti nella Terra dall'inizio, sono presenti nell'universo, no? Dall'inizio dell'universo, ma nel caso della Terra dall'inizio dell'universo, le cui caratteristiche, come ci spiegherà adesso aiutandoci a navigare in questo mondo di particelle, in questo mare di particelle che fluttuano, sono caratterizzati da una certa instabilità, come noi d'altra parte, cari ascoltatori e ascoltatrici di Radio Onda Rossa, pure noi siamo caratterizzati da una certa instabilità, eppure noi tendiamo un pochino, quando le cose non ci stanno bene, a riscaldarci e ad emettere calore. Quindi la presenza nella Terra di questi elementi primordiali, primo tra tutti l'uranio, vedremo poi chi è, che cos'è il torio, così determina una emissione da parte che sono instabili e che quindi tendono dall'inizio, da quando si sono formati, dall'inizio della Terra, ad assumere una configurazione più stabile, giusto comandante Jacopo? Ecco, quindi cioè, diciamo che tendono alla stabilità, perché tutti quanti tenderebbero alla stabilità, come anche molti di noi ex precari tendono alla stabilità, così anche gli elementi radioattivi tendono alla stabilità, che non è detto che sia stabilizzazione, ma comunque è uno stato della materia meno complesso, meno energetico. Per perdere, diciamo, energia, tendono ad emetterla, ed emettono in gran parte questa energia, si trasmette sotto forma di calore. Considerate l'intero pianeta, e questo, e noi abbiamo il riscaldamento dal basso. Il gradiente geotermico medio è 33 gradi a ogni 100 km, cioè 3 gradi a chilometro, giusto? Sì, e, 3 gradi a chilometro, facciamo così. E il flusso di calore è diverso nelle aree dove ci sono le rocce più granitoi, così è leggermente maggiore, nelle aree un po' più giovani è un po' minore, nelle aree oceaniche in certe zone è massimo, come al centro delle dorsali oceaniche, mentre invece in altre zone, proprio nelle fosse, nelle zone dove non succede, dove non sale niente, teoricamente il flusso di calore è minore. Però in linea di massima la Terra, rispetto a Marte, la Luna e gli altri pianeti, ma questi due essenzialmente, è un pianeta molto più wow, molto più vivo. E questa vita, diciamo, termica per il momento, energetica, come diceva prima il comandante Jacopo, è prevalentemente dovuta alla presenza di materiali detti radioattivi. E qui, dopo una piccola pausa, passiamo la parola al comandante Jacopo, che è l'unico che ha la mappa per orientarci in questo mondo di particelle che sparano, partono, attraversano superfici, non le attraversano, scaldano, freddano, non si capisce, ci curano, ci aiutano nella cura, per esempio, ci aiuta, purtroppo sono anche particelle che possono creare dei problemi, come sappiamo. Quindi aspettiamo la post pausa per la voce del comandante Jacopo. Benvenuti a Radio Onda Rossa. E allora, brevissima pausa, vediamo se indovinate di che si tratta. ebbene sì, avete indovinato, era Radioactivity dei Kraftwerk. E perché effettivamente si parla di radioattività questa sera, Onda Rossa 87.9, Libera Scienza e Libero Stato. Ci parla adesso un po' più nello specifico il nostro comandante Jacopo. Buonasera a tutti, buon inizio festività. Lorenzo, sì, sempre le grandi belle introduzioni, questa volta è stato anche più sintetico delle altre volte, ma è stato anche molto più incisivo. Sì, è vero, la vita sulla Terra, possiamo dire, dipende anche dal fatto che esiste la radioattività. La radioattività, diciamo che è un po' il respiro della Terra, perché costituisce, fornisce il calore alla Terra e quindi in un certo senso genera anche la vita. Ma tutti quanti siamo abituati a pensare che si sente? Mi sa che c'è qualche problemino con il microfono, riproviamo da quello. Riproviamo? Sì, eccoci. Ah, eccomi. Buonasera a tutti, scusate. Scusate, ci siamo, quindi siamo ripassiamo sotto, di nuovo la voce al comandante Jacopo, che appunto ci va un po' più nello specifico a raccontare la radioattività. Terzo, buonasera. Ecco, adesso forse è arrivato adesso a tutti. Siamo. Buonasera e buon inizio festività. Sì. Saluto tutti. Saluti solo tu. Cioè, riprendo da dove il buon Lorenzo ha interrotto. Sì, la radioattività, come dicevi tu Lorenzo, è un po' appunto anche il motore della vita sulla Terra, perché produce calore e questo calore è fondamentale per tutto quello che sulla Terra si è sviluppato. È un po', possiamo definirlo anche un po' il respiro della Terra, ecco, i terremoti è un respiro, no, come se la Terra si gonfiasse e si sgonfiasse in tutto ciò, in questi flussi di calore convettivi. Ora però ricominciamo un po' da capo. Insomma, in tutte queste trasmissioni, anche l'anno scorso abbiamo parlato in maniera trasversale, abbiamo sempre parlato un po' di radioattività, perché la radioattività è comunque un fenomeno naturale come tantissimi altri, come le onde elettromagnetiche, come appunto il calore, come qualsiasi altro fenomeno della fisica, ecco, della chimica. Ha una particolarità perché comunque la radioattività presa in dose eccessive fa male. Ora è un po', io dico sempre, un po' come le sigarette, la radioattività. Se tu fumi al giorno un pacchetto di sigarette, puoi dire benissimo che se ti ammali, questo dipende dal pacchetto, è strettamente correlato alle sigarette che tu ti sei fumato. Ma se uno si fuma una sigaretta una volta ogni tanto, non puoi dire che questa sigaretta fa male, però non puoi dire neanche tanto che fa bene, ecco, però non fa male. Ecco, la radioattività è un po' così. Ma che cos'è? È appunto, come dicevi tu Lorenzo prima, era un fenomeno della natura, un fenomeno spontaneo in cui la natura tende sempre ad andare a uno stato di energia sempre minore, cioè a ricercare perennemente una condizione di equilibrio. Allora nell'universo abbiamo tantissimi elementi, no? La nostra tavola periodica fornisce tantissimi elementi, dall'idrogeno fino agli elementi più pesanti, all'ossigeno, passando per il carbonio, l'azoto, fino ad arrivare a quelli più pesanti, che sono appunto, come dicevi tu Lorenzo, l'uranio, per esempio l'uranio, il torio, sono elementi molto pesanti, sono atomi, non sono altro che atomi. Ora, all'interno di questi atomi, poi lo stesso elemento, per esempio l'ossigeno o l'uranio, ha dentro di sé diversi altri tipi di uranio, che si chiamano isotopi. Quindi possiamo passare dall'uranio 234, che sarebbe un isotopo dell'uranio, l'uranio 238, si chiamano così. Ora, gli isotopi sono gli atomi in cui ogni isotopo è caratterizzato è costituito da diverse particelle. Ora, ogni atomo è costituito da un protone e un neutrone, come abbiamo sempre ricordato, da un insieme di protoni e da un insieme di neutroni. Ora, il numero di neutroni in più rispetto che ci sono determina l'isotopo. Per esempio l'uranio 238 avrà più neutroni rispetto per esempio all'uranio 234. 34, e il 234, il 234 si chiama numero di massa, gli atomi sono caratterizzati da numero di massa e da un numero atomico che li caratterizza nella tavola periodica. Ora, quindi diciamo, prendiamo un isotopo, per esempio l'isotopo dell'uranio 238, questo isotopo è instabile, quindi deve arrivare a una condizione di stabilità, quindi di minimo di energia. Cosa succede? All'interno del suo nucleo vengono emesse delle particelle. Allora, i decadimenti radioattivi si possono, a seconda di ciò che viene emesso dal nucleo di questo atomo, si differenzia la radiazione radioattiva. Allora, per esempio, la radioattività quindi si differenzia per emissione di particelle alfa. Le particelle alfa sono atomi che vengono emessi all'interno del nucleo, sono nuclei più leggeri che vengono emessi dal nucleo più pesante, che sono tipicamente particelle alfa, si chiamavano alfa perché li scoprì Rutherford, però poi si è visto andando più a fondo negli esperimenti che questi erano nuclei di elio 4, cioè erano particelle che avevano due protoni e due neutroni. Un secondo tipo di decadimento è il decadimento beta. Beta cosa vuol dire? Che l'atomo decadendo emette quello che è un elettrone, quindi una particella beta negativo, più l'emissione di neutrini. E la stessa cosa può farlo, sempre con decadimento più, però emettendo un elettrone con una carica di segno opposto, cioè positiva, che si chiama positrone. L'ultimo tipo di decadimento è quello in cui il nucleo oscilla come una molla, cioè questi protoni e neutroni che sono all'interno del nucleo oscillano e nella loro oscillazione emettono una radiazione elettromagnetica, sotto forma di raggi gamma, cioè vuol dire di alta energia, che la radiazione elettromagnetica, per esempio io parlando voi mi ascoltate perché io emetto la radio emette un'onda elettromagnetica con una certa frequenza molto più bassa rispetto a quella onda elettromagnetica che viene emessa dal nucleo che decade radioattivamente in maniera radioattiva, quindi emettendo un raggio gamma a alta energia. Queste sono particelle energetiche, in questo processo di stabilizzazione verso un minimo di energia viene emessa, appunto, se uno deve arrivare a un minimo energetico deve emettere questa energia, e l'energia viene espressa appunto sotto forma di queste emissioni beta, gamma e alfa, e queste è quello che consiste nella radioattività. Ora, la radioattività però, appunto, come dicevo, come la sigaretta, può far bene o può far male, bene no, scusate, però se presa in piccole dosi possiamo dire che non fa male, ecco, diciamo così, anche perché siamo abituati, c'è da dire che c'è una radioattività naturale a livello, appunto, come dicevi tu Lorenzo, formato dagli elementi primordiali che sono l'uranio, il torio, il potassio 40, per esempio, ecco, il potassio è un altro elemento che noi sentiamo sempre, no, come il carbonio, però il potassio 40, soprattutto se uno mangia tante banane, assorbe un grande livello di radioattività col potassio 40 perché è radioattivo. Eppure i Simpson mi pare che facevano, no, i Simpson, c'era una foto, un disegnino dei cosi, come si chiamano dei pupazzetti dei cartoni animati dei bambini che avevano la banana. Inoltre aggiungo soltanto, così se mi permette il comandante Jacopo, come fonte di radioattività naturale che ci colpisce tutti i giorni, a parte degli aspetti particolari della nostra zona, ci sono le radiazioni cosmiche e delle, insomma, in sostanza uno ogni giorno in Italia si prende una dose media molto bassa, ma che comunque poi in più, oltre alla radioattività naturale di cui siamo bombardati, c'è pure la radioattività artificiale di fondo, dico, a parte le cose, gli incidenti di fondo, dovuta per esempio all'incidente di Chernobyl nel caso del decollo, oppure dovuta anche agli esperimenti delle esplosioni nucleari in atmosfera svolte nella seconda metà del 1900 prevalentemente, che si aggiungono alla dose di radioattività naturale che naturalmente, appunto, l'uomo riceve. Sul fare bene e fare male, ma mi permetto di aggiungere pure quello che nelle applicazioni che, come magari vedremo, della radioattività in ambito, che ne so, medico ad esempio, o anche industriale, in quel caso lì la radioattività controllata così serve alla nostra salute nel caso delle applicazioni nucleari, di medicina nucleare, o addirittura alla salute degli alimenti e delle, al controllo anche di alcune cose. Magari sono gli unici casi, però insomma, ci stanno dei casi in cui c'è un risvolto positivo della conoscenza oltre alla conoscenza stessa. Sì, perché cosa, ecco, io voglio, per esempio, tu, diciamo che fa male, ma cosa vuol dire fare male in questo caso? Significa, perché queste particelle dovrebbero far male? Ecco, tutti quanti dicono la radioattività fa male. Perché queste particelle innanzitutto sono ovviamente infinitamente piccole, sono, sono più che, vanno nell'ordine di micron, di nanometri di grandezza, queste particelle sono molto energetiche, cioè hanno una velocità come se fossero delle biglie lanciate a alta velocità che penetrano i nostri tessuti, sono così piccoli e così penetranti che riescono a modificare il DNA delle nostre cellule. Perché se voi immaginate che il DNA è fatto di molecole, le molecole non sono altro che aggregati di atomi messi insieme, l'atomo è appunto composto da un nucleo, che è quello di cui abbiamo parlato, e poi ci sono degli elettroni che orbitano attorno a questo nucleo, questi atomi si aggregano tra di loro. Immaginate questa particella, per esempio alfa, che arriva velocemente, tocca un elettrone dell'orbita di un atomo e lo manda via, proprio lo caccia, lo disgrega. A questo punto, disgregando, mandando via l'elettrone, si disgrega la molecola e a sua volta si incomincia a disgregare anche che ne so, la proteina che forma il filamento, una proteina che forma un filamento di DNA. A questo punto si crea un errore nel DNA e a quel punto insomma, poi sapete tutti come va a finire. E quindi questo fa male, ma fa per esempio una piccola dose di radioattività noi ce l'abbiamo comunque in corpo, non è quello. Per esempio, quando si ritrovano i reperti ossei, come si fa a datare l'età di questo reperto? Attraverso il carbonio 14, perché voi sapete che i materiali organici sono composti per lo più di carbonio, di aggregati di molecole di carbonio. Ora, tra questo carbonio, come dicevo prima, no? Ci sono il carbonio stabile, c'è anche il carbonio che emette radiazioni, l'isotopo del carbonio che è instabile, quindi deve decadere, e questo isotopo è il carbonio 14. Noi abbiamo una piccola percentuale di carbonio 14, ma è quella che permette a tutti gli organismi viventi di poter essere datati nel momento in cui vengono ritrovati dopo migliaia, anche dopo migliaia di anni. Altra applicazione è la radioattività appunto alla medicina, perché possono essere utilizzati appunto benissimo come traccianti. Io posso iniettare un isotopo radioattivo nel mio corpo e vedere attraverso sistemi di rivelazione dove va. Quindi io, se io inietto un isotopo, per esempio come il fluoro, che si lega al metabolismo degli zuccheri, questo fluoro radioattivo andrà in circolo e seguirà il percorso metabolico. Quindi se io voglio vedere attività maggiori di metabolismo di cellule che appunto hanno più attività metabolica, quindi assorbono più zucchero, io vedo delle concentrazioni di questi isotopi in quello, è quello che si chiama la PET. L'analisi PET che viene usata più o meno lo stesso concetto, se non sbaglio, non so se lo stavate per dire, viene usato anche per tracciare, per analizzare l'andamento degli acquiferi certo, infatti questo è un altro aspetto, quindi di applicazioni ce ne sono molte. La radioattività ha un tempo di decadimento, cioè la radioattività è quel fenomeno, possiamo dire anche, di trasmutazione di un elemento in un altro. Solo un processo di decadimento radioattivo può cambiare un elemento in un altro elemento, perché in chimica cosa fate? Quando si fa una reazione chimica, io per esempio una certa quantità posso avere di ossigeno, una certa quantità di carbonio, io li faccio reagire insieme, queste quantità li posso mescolare, però quello che otterrò dopo la reazione chimica è sempre la stessa quantità di ossigeno e la stessa quantità di carbonio. Con un decadimento radioattivo invece un certo elemento cambia proprio, cioè per esempio io, per esempio attraverso uno dei decadimenti radioattivi, il carbonio, quello che dicevo 14, per esempio attraverso l'emissione di un elettrone, cioè di un decadimento beta meno, arriva a diventare azoto, così come il potassio 40 decade e diventa calcio e così via. Quindi nella crosta terrestre, per esempio, quello, i materiali, diciamo, gli elementi primordiali sono l'uranio, il torio e il potassio. L'uranio 238, il torio 232 e il potassio 40. Ora, questi elementi, che sono, si chiamano capostipiti, perché decadendo generano tantissimi altri prodotti, tra cui quello che adesso andremo a parlare, per esempio, sia il radon che il radio. Sono il radon, per esempio, lo conoscete, se qualcuno lo conoscerà, perché appunto un altro è il secondo principale agente di cancerogeno per i polmoni, assorbito, inalato in quantità molto alte, e il radio e il polonio sono elementi molto sono pericolosi perché hanno un'alta attività radioattiva. Dicevo, l'uranio 238, per esempio, con l'uranio 238 è possibile fare datazioni a livello geologico, perché l'uranio 238, come dicevo, per trasmutare in un altro elemento, cioè quindi da lui che è il padre fino ad arrivare a trasmutare al figlio, per esempio al torio, il primo elemento di decadimento, ha tempi di decadimento di circa 4 miliardi e mezzo di anni, ecco. Quindi vuol dire decadimento o tempo di dimezzamento. Se io ho un grammo di uranio, diventerà 0,5 grammi di uranio dopo 4,5 miliardi di anni. E così il torio ancora di più e il potassio ancora di più, sono primordiali. Quindi io parto da una concentrazione, dico che all'inizio era tutto uranio, vedo al mio, quando faccio la datazione, per esempio, di una roccia, di un minerale, vedo per esempio quanto quanta parte del figlio c'è, in questo caso il torio, e riesco a risalire a quanto è vecchio quel reperto geologico che io sto analizzando, e così anche con le ossa, eccetera eccetera. Quindi è l'unico modo. Quando gli scienziati, no noi, dicono che la Terra ha circa 4 miliardi e mezzo di anni, lo si fa appunto attraverso utilizzando appunto le proprietà, le leggi della radioattività, per capire l'età della Terra. E allora di nuovo una brevissima pausa e torniamo tra poco in voce con Scienza e Potere, Libera Scienza e Libero Stato. Stasera radioattività, a fra pochissimo. Taste the water. nuovo in voce 87.9 Radio Onda Rossa. Questi erano Porcupine Tree, Radioactive Toy, sempre perché continuiamo a parlare di radioattività, libera scienza e libero stato. Parola a voi. Benissimo, allora ripeto per i più che la radioattività, questa puntata che spiega un pochino di più la radioattività e vuole essere propedeutica poi ad altre puntate che faremo dove sarà molto più chiaro il contesto scienza-potere, rapporti tra scienza e potere intorno a questo tema. Oggi lo affronteremo soltanto, però era necessario capire che quindi sulla Terra esistono degli elementi, molti elementi che hanno delle configurazioni atomiche che sono instabili e che tendono a emettere energia sotto forma di particella, vari tipi di particella che ci ha descritto il comandante Jacopo con precisione, e per perdere pezzi e trasformarsi in elementi più stabili. Queste catene si chiamano catene di decadimento, richiedono dei tempi che sono diversi a seconda dell'elemento. Jacopo ci ha detto che l'uranio ha un tempo di dimezzamento, che è il tempo che viene utilizzato di solito per definire la vita radioattiva di un elemento. Si fa riferimento al tempo di dimezzamento, cioè come ha spiegato prima Jacopo, il tempo in cui si riduce di metà e si trasforma in qualcos'altro. Altri elementi hanno un tempo, un'emivita molto più breve prima di scomparire e trasformarsi in un altro. Ma tutto questo è inserito in queste catene che partono dai precursori che prima ha nominato Jacopo. Tra questi elementi, così, giusto una nota che riguarda il Lazio, molto rapidamente, prima di ripassare la parola al comandante Jacopo e capire queste particelle di che tipo sono, che energia hanno e a cosa servono, poi magari come ci si può e che differenza hanno nel tempo di energia e di penetrazione, un piccolo elemento, visto che Jacopo, un piccolo approfondimento, piccolissimo, visto che Jacopo l'ha nominato, è sul radon. Il radon, che riguarda in particolare il Lazio, il radon è uno degli elementi radioattivi della catena di decadimento dell'uranio. È un gas che viene prodotto in grande quantità, viene prodotto sulla Terra da tutte le parti, insomma, però viene prodotto in grande quantità in particolar modo dove sono presenti rocce di tipo vulcanico, perché all'interno contengono dei minerali dei figli, diciamo, dell'uranio. Quindi le zone vulcaniche, in particolare il Lazio, hanno una caratteristica di avere tanta emissione di radon. Nel caso nostro, della nostra vita comune, in edifici che sono appoggiati su rocce vulcaniche, come nel caso di gran parte di Roma, e che in molti casi sono, soprattutto gli edifici più antichi, costituiti da blocchi di tufo, la presenza di radon negli ambienti chiusi può essere particolarmente maggiore di altre zone. Il radon è un gas radioattivo che, per decadere, anche quello, quindi è radioattivo, quindi emette particelle di tipo alfa, e decade in elementi polonio e non mi ricordo quale altro, che anche loro hanno un decadimento di tipo alfa. Quindi se inaliamo il gas radon, che è tendenzialmente inerte, permanendo nei nostri polmoni anche oltre il tempo di decadimento, emette particelle alfa. Queste particelle alfa, come ha detto Jacopo, sono particelle grosse, molto, molto energetiche, vanno a colpire i nostri tessuti e possono creare parecchi problemi. Il radon ultimamente si è scoperto che è considerato la seconda causa di tumore al polmone dopo le sigarette, insomma, diciamo, quindi è tumore correlato. In questo modo, anche negli ambienti di lavoro, l'Italia, che sta un po' indietro rispetto al resto d'Europa, ha sviluppato una legislazione apposita che prevede, soprattutto per ora, per i luoghi di lavoro, il monitoraggio della quantità di radon a cui i lavoratori sono esposti, stabilendo dei limiti che sono 400, cioè un'unità 400 becquerel al metro cubo per anno, e poi adesso la spiega meglio Jacopo. Quindi ecco, questo è un altro esempio di come la radioattività naturale presente può influenzare, in questo senso, in questo caso negativamente, la nostra vita. Ma anche un elemento di attenzione: in questi ultimi anni si sono moltiplicate le iniziative per il monitoraggio radon, soprattutto nel Lazio. Il Lazio ha una percentuale molto più elevata rispetto a tutte le altre regioni d'Italia e quasi d'Europa di emissioni di radon dagli muri, dal sottosuolo, soprattutto in alcune zone di maggiore presenza di rocce vulcaniche di un certo tipo e di fagliazione di fratture, da cui risale, anche in presenza di sorgenti termali da cui risalgono fluidi ricchi in gas del sottosuolo profondo, e quindi è un elemento d'attenzione. Ripasso la parola al comandante Jacopo che ci parlerà, credo, del tipo di particelle che vengono sparate fuori da questi elementi e che ci colpiscono. Sì, riprendiamo un attimo quello che avevo detto prima sulla natura di questi decadimenti radioattivi, su queste particelle. Le particelle alfa, come prima ha detto Lorenzo, sì, sono molto energetiche, sono molto massive, però anche se hanno un'energia molto grande, sono poco penetranti, si dice. Cioè, se io ho una sorgente che emette particelle alfa, io posso schermarmi e quindi non assorbire particelle alfa. Se interpongo tra me e la sorgente alfa, basta un foglio di carta. Questo foglio di carta basta per stopparle, cioè vengono assorbite tutte dentro questo foglio di carta. Se io invece ho una sorgente, per esempio, che emette elettroni o positroni, cioè sorgenti radioattive con un tipo di decadimento beta, il foglio di carta non basta più, cioè è trasparente. A quel punto io, per schermare gli elettroni, devo prendere un foglio di alluminio, per esempio, molto più spesso, e schermare. Ancora di più, se io ho un'altra sorgente che emette a questo punto invece raggi gamma, i raggi gamma sono molto energetici, radiazione elettromagnetica altamente penetrante, più dei raggi X. I raggi X è lo stesso tipo, vengono prodotti non con lo stesso meccanismo all'interno dei nuclei, ma utilizzando variazioni energetiche di elettroni degli atomi. Comunque è sempre radiazione elettromagnetica, raggi gamma molto più penetranti. A quel punto io, per bloccare questi raggi gamma, ho bisogno di centimetri, decine di centimetri di piombo o di cemento armato. Allora, e quindi capite bene che se io ho sorgenti molto radioattive, io devo stare molto attento nello schermarmi, devo prendere tutte queste precauzioni. Come si misura la radioattività? L'ha accennata Lorenzo, voglio dire i becquerel. Becquerel, in onore di Henri Becquerel, diciamo il padre, lo scopritore della radioattività. Lui stava facendo degli esperimenti sulla fluorescenza di certi materiali. A quel punto aveva preso minerali di uranite, perché avevano proprietà di fluorescenza come quelli che voi avete negli orologi, però non è uranio, sono altri tipi. Però ecco, Lorenzo, ne parliamo subito dopo come rapporti tossici tra scienza, sì, e potere. Allora aveva messo una lastra fotografica per vedere appunto la radiazione di fluorescenza che veniva emessa, se non che lui di notte, spegnendo il laboratorio, tornando la mattina, questa lastra era impressa comunque, veniva impressa, e dice: ma che cos'è, non è fluorescenza, perché luce non ce n'è. La fluorescenza è quel fenomeno per cui il materiale assorbe prima energia luminosa e poi con un certo ritardo la riemette sotto forma di luce fluorescente. Ora però, per riemettere deve prima assorbire, se non c'è luce. Però questa lastra veniva impressa comunque, quindi lui contò queste macchie, diciamo così, che venivano impresse sulla lastra fotografica. Da lì poi arrivarono i grandi coniugi Curie, Pierre Curie e Madame Curie, che sono i padri proprio della radioattività. Madame Curie scoprì le proprietà radioattive, appunto radioattività da radio, perché scoprirono l'elemento radio, videro che era attivo, cioè quindi faceva impressionare queste lastre fotografiche, quindi attività del radio, radioattività. Il radio è un altro elemento molto radioattivo. Povera Madame Curie è sepolta al Pantheon di Parigi. Purtroppo, ovviamente, all'inizio i lavori pionieristici non sapevano di questa pericolosità dell'alta radioattività. Madame Curie, per esempio, dormiva con pezzi di radio nel cassetto del comodino, si dice. Ovviamente maneggiava senza prestare nessunissima attenzione a questi elementi. Fatto sta che quando è morta e messa nel Pantheon è dovuta essere incamiciata con una camicia di piombo, perché ovviamente era diventata a sua volta appunto una sorgente radioattiva, e quindi per problemi di radioprotezione per i turisti che andavano a vedere la tomba di Madame Curie, tutt'oggi doveva essere schermata. Quindi dicevo, Becquerel, scopritore, il Becquerel è l'unità di radioattività, cioè sarebbe un decadimento, cioè un'emissione di una particella alfa, beta o gamma al secondo. Tu, così. Quindi praticamente, se io ho un'enorme quantità, enorme si fa per dire, per esempio in grammi, possa avere anche milioni di conteggi, si dice così, di conteggi al secondo, cioè di decadimenti al secondo, quindi di particelle che fuoriescono. Tutto ciò per arrivare poi alla stabilità, cioè a elementi che non sono più radioattivi. Ce ne sono tanti, cioè noi, la maggior parte degli elementi, insomma la stragrande maggioranza, la vita è fatta di materiali non radioattivi, cioè di isotopi che non sono più radioattivi. Le principali, come dicevamo prima, è l'uranio, però l'uranio ha una, siccome è molto grande, per arrivare a una stabilità l'uranio 238 deve decadere tante, deve fare tanti passaggi, passa dal torrio, poi diventa il torrio, diventa appunto il radio di Madame Curie, poi il radon che diceva Lorenzo, poi si passa un altro elemento, il polonio, poi il piombo. A questo punto il piombo si dice 214, l'isotopo che anch'esso è radioattivo, fa altri passaggi, non li sto elencando tutti ma sono molti, fino ad arrivare al piombo, all'isotopo del piombo 206, che è quello stabile, che non emette più radioattività. Ora, questo è quello che è in soldoni, diciamo in poco tempo, il fenomeno della radioattività. Volevo dire che appunto è un fenomeno naturale. Una volta calcolata la radioattività, ci sono altre unità di misura che danno, diciamo, la percezione di quanto fa male questa radioattività. E si esprime in sievert, è un'unità di misura che dice quanto io ho assorbito di radioattività. Allora, non voglio entrare in dettaglio assolutamente di questo tipo di unità di misura, che è veramente per tecnici, però dire, quando ho detto che la radioattività, noi siamo immersi in radioattività, noi stessi siamo radioattivi, noi abbiamo un fondo, ci muoviamo sulla Terra su una media di fondo naturale di circa 2,3 millisievert, che è roba poco. Diciamo che un lavoratore che lavora nelle centrali nucleari esposto può assorbire fino a 20 millisievert. Un attacco che noi facciamo sono all'incirca 10 millisievert, queste sono unità di misura. Quando facciamo un attacco, i raggi X sono ancora più bassi, diciamo qualche, non so, adesso non mi ricordo, ma non si arriva neanche al millisievert. Però ci sono, per esempio, zone della Terra, per esempio a Ramsar in Iran, che è una località termale, ci sono tantissime sorgenti termali, in cui nel sottosuolo, attraverso queste sorgenti termali, esce fuori il radio 226, quello di Madame Curie sempre, che è molto radioattivo. A quel punto, in certe zone, si arriva a 260 millisievert di dose. Ci sono altre zone in Brasile, tantissimi elementi naturali che sono radioattivi, che noi maneggiamo tutti i giorni, le stesse banane che noi mangiamo. Quindi la radioattività è qualcosa che è presente sempre e comunque in ogni luogo, in ogni istante. E allora, di nuovo, ultimissima pausa musicale prima del termine di questa trasmissione sulla radioattività, e quindi in voce tra pochissimo. I'm waking up. E questa era, sempre per restare in tema, Radioactive degli Imagine Dragons. Torniamo in voce, 87.9 06 49 17 50, onda rossa, ondarossa.info su web. Libera Scienza e Libero Stato, ultimi scampoli di trasmissione appunto su radioattività e potere. Torniamo a Bomba, in questo caso, prima di parlare nelle prossime puntate invece degli aspetti quelli più eclatanti e più paradigmatici, appunto la bomba e altre vicende. Quando si afferma la radioattività, quando si scopre la radioattività, il mercato di quegli anni lì, fine 800, inizi primi del 900, non si fa attendere la reazione del mercato, e il successo della scoperta della radioattività porta, e le convinzioni all'inizio ingenua che la radioattività facesse solo bene, porta all'affermazione di un sacco di prodotti contenenti materiali radioattivi. In particolare, all'inizio tutto quanto parte dall'acqua, perché era stato verificato che alcune, contemporaneamente alla scoperta della radioattività, era stato verificato che alcune sorgenti particolarmente note per l'effetto benefico contenessero delle tracce di radon, appunto, cioè l'acqua profonda. Sorgenti termali iraniane, la gente comunque ci si immerge. Esatto. Quindi c'erano delle esperienze di cose, e quindi faceva scopa il fatto che scoprisse la radioattività nei primi 10 del Novecento. Intorno al 1912-1915 si scopre, si riteneva che quest'acqua avesse proprietà miracolose anche in relazione, e soprattutto a quel punto in relazione alla presenza di materiali radioattivi. Fioriscono una quantità di iniziative pazzesche, anche di truffe pazzesche, tra cui una società francese, Torodon, che faceva prodotti cosmetici con torio e radio, che addirittura fatto da un omonimo della Curie, che non era parente di Madame Curie, ma che si chiamava Curie, e quindi non ha mai smentito. Aveva sfruttato il nome. Esatto, aveva sfruttato il nome. Quindi meccanismi classici capitalistici. Il più brutto, la storia più brutta, che assomiglia a tante storie più recenti, è quella che riguarda quelle che sono state chiamate poi Radium Girls. È una storia poco nota e riguarda le lavoratrici di una società che si chiama US Radium Corporation, statunitense, che tra il 1917 e il 1926 produceva quell'orologio fosforescente, non proprio quello di cui parlava il comandante Jacopo, ma un orologio fosforescente la cui luminosità, che si chiama Undark, quindi contro le tenebre, la cui luminosità era dovuta al fatto che le lancette erano spennellate di materiali radioattivi che nel buio rilucevano. Per fare questo lavoro furono assunte 70 lavoratrici, prevalentemente giovani, che venivano pagate anche tanto per fare questo lavoro, e che venivano invogliate a leccare la punta del pennello per fare dei lavori più raffinati. All'inizio loro non sapevano niente, pare che addirittura alcune lavoratrici utilizzassero questa vernice come smalto. Quindi queste lavoratrici, che facevano 250 orologi al giorno, più magari si mettevano pure l'esmalto, acquisirono negli anni, nei decenni, una dose pazzesca, tant'è che qualcuno dice che se adesso uno riesuma i corpi trova, come nel caso di Madame Curie, una forte dose di radioattività. La cosa grave non è tanto all'inizio, dove magari si poteva pensare che la US Radio Corporation non sapesse l'effetto, ma a un certo punto lo scoprono, tanto che è stato dimostrato che i chimici, i dirigenti, gli ingegneri che lavoravano nella stessa società non maneggiavano il materiale senza protezioni, ma anzi, visto che pure lì il decadimento era prevalentemente alfa, comunque utilizzavano soltanto pinze e schermi e maschere per lavorare a questi materiali, magari per completare il processo produttivo. Invece le lavoratrici furono tenute all'oscuro nel frattempo completamente, continuava questo lavoro. Nel frattempo, mentre qualcuna di loro cominciava ad ammalarsi, anche se erano della classe più povera, non c'era tanta risonanza, fino a che poi contemporaneamente altri prodotti messi sul mercato, tipo delle gocce miracolose che curavano l'impotenza, ci immergevano dei sospensori per tenere le ghiandole a mollo, comunque sotto l'azione di cose, cominciarono a fare vittime e a fare comunque danni anche a persone famose. A quel punto lì tutto il quadro si compose e quindi venne fuori la pericolosità di questi prodotti, anche se poi in realtà, come leggevo prima, loro alcune cose hanno resistito fino agli anni 70, venivano vendute materiali per la cucina, bacinelle di plastiche verniciate con vernici particolarmente wow, perché dentro ci avevano dei materiali radioattivi, e addirittura stavo a leggere che negli anni 80 vendevano un portasigarette com'era pieno di con materiali radioattivi, e ultimamente i rilevatori di fumo degli alberghi sono pieni da americio e sono stati per fortuna recentemente tutti sostituiti, ma i rilevatori di fumo degli alberghi e degli ambienti chiusi dentro c'hanno una sorgente radioattiva, quindi tu non ti fumavi la sigaretta ma ti piavi una piccola dose se eri un viaggiatore, ci sono state pure delle malattie. Per completare la storia delle lavoratrici degli orologi, finalmente la prima che si è ammalata, addirittura è stato dimostrato che i medici che l'hanno visitata erano a libro paga della US Radiation Company, US Radium Corporation, e successivamente invece lanciarono una delle prime class action del se così si può dire delle statunitensi, e a loro, per quanto poi morirono tutte quante in condizioni ovviamente brutte, perché di tumori alle ossa, perdita dei denti, quello è stato il primo sintomo, quindi compromissione prevalentemente dell'apparato osseo, e ottennero diciamo un vitalizio per breve e purtroppo e un risarcimento. Leggevo che la fabbrica è stata chiusa nell'85 e che attualmente, quando l'hanno chiusa, hanno trovato ancora 1600 tonnellate di materiale, circa 1600 tonnellate di materiale di scarto tuttora radioattivo. Esiste, non l'ho visto, un documentario su questa vicenda di sfruttamento capitalistico proprio tipico delle lavoratrici, tra l'altro donne in questo caso, proprio tipico dei primi anni, di quegli anni del capitale, e che ha a che fare con la negazione della pericolosità della radioattività. Diciamo che forse uno dei primi esempi di